24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Voglio dire all'opinione pubblica tedesca che l'Italia è stata in grado di fare queste scelte e che bisogna togliere dall'immagine dello stereotipo l'idea di un paese assistito che chiede all'Europa di salvarla. L'Italia ce l'ha fatta da sola, l'Italia ce la fa da sola. Avete sentito che piglio deciso davanti ai tedeschi? Quello di Enrico Letta. Basta pensare che l'Italia è un paese aiutato, assistito, l'Italia ce la fa da sola. Oh, si va così in Europa davanti ai tedeschi, davanti ad Angela Merkel, davanti a tutti quelli lì. A cantargliele, poi settimana prossima torna qua e c'è il caso cancellieri da gestire, perché si sta riaprendo, è un po' un mezzo disastro. Va bene, sono le 6:34 del mattino a Milano, piove, governo, punto, piove, governo. È venerdì e questa è una buona notizia. Saluto Elisabetta Fusconi, oggi in redazione, l'hanno sbrandata alle 5, vabbè. Saluto l'alpino Peter Bescapè in regia e saluto, no, e saluto e apro la Claire. La Claire si chiama a Milano. Il caffè volentieri a tutti quanti. La Claire si chiama a Milano, la Serranda, com'è? Voglio salutare subito la capa della Padania, Aurora Lussana. Aurora, buongiorno. Eccomi qua Alessandro, buongiorno a te, un saluto agli amici di Radio 24. Oggi non sta spingendo macchina, però oggi si è svegliata da 32 secondi, credo. No, mi hanno svegliato nel cuore della notte perché un collega hanno rubato l'iPhone. Ma porca miseria, ma sì, che succede in Padania? Sulla 4, vabbè. Poi c'è un collega invece in consiglio comunale in questo momento a Milano, ho un giornalista della Padania lì al consiglio comunale di Milano, mi sta aggiornando, sono ancora lì leghisti a fare proposizione contro la giunta Pisapia alle 6 di mattina. Cioè c'è il consiglio comunale di Milano in questo momento in corso? Attenzione, siamo nel cuore della notizia. Voglio salutare subito allora Marione Adinolfi. Marione, buongiorno. Buongiorno, mandate a dormire il povero collega della Padania, basta opposizione a Pisapia. Viva Pisapia! Ma infatti, ma che ci fa lì? Scusa, tanto la Padania poi esce domani, ha tutto il tempo per scrivere il pezzo, ma mandalo a dormire. No, siamo lì, abbiamo seguito i lavori in notturna a Palazzo Marino. Pisapia vuole introdurre un aumento di imposte pari a 1 miliardo di euro e mettetevi di traverso alle tasche dei milanesi, battete le scarpe sui tavoli, fate come Khrushchev all'ONU, mettetevi di traverso. Certo, sei qui per quello. Ma è un giornalista, cosa deve fare? Marione, il giornalista della Padania, militante, si mette lì davanti a Pisapia. Caffè, che deve fare? Si mette lì davanti a Pisapia. Vabbè. Allo striscione, Padania libera. Esatto. Allora, vabbè, che dobbiamo fare? Allora, ti piace questo Letta, cara Lussana? Ti piace che va lì e gliele suona, gliele canta a questi tedeschi? Letta è così, c'ha il carisma di un boy scout, nel senso sì, è autorevole, credibile per l'italiano medio, a noi padani piace un altro tipo di leadership, noi siamo insomma più autentici, più ruspanti se vuoi. Però andare in giro per l'Europa a raccontare quelle balle lì, insomma, ma che balle? Davvero che ti chiamino balle d'acciaio. Ma come no? Una volta che tiene alto l'onore, no? Marione è andato lì a cantargliele, ma cos'è sta cosa? Era divertente perché contemporaneamente arrivavano i dati sul PIL con l'Italia ancora per il 9° trimestre consecutivo di recessione, sì, e la Germania che veniva bacchettata perché faceva troppi soldi con l'export, insomma. insomma, quindi questa era la situazione. Raccontava un po' la differenza. In più c'era la cancellieri che sta per saltare, il governo stesso sta per saltare, c'era Mastra Pasqua che diceva che non ci saranno più i soldi per pagare le pensioni. Sì, il quadro. Però Letta diceva: no, noi ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo. Allora, per Adinolfi sta per saltare. Anche Sacco Manni diceva: effettivamente Sacco Manni potrebbe pagare. Il fatto che un lettore di Libero lo avrebbe visto prendere in giro Berlusconi al ristorante, poi avrebbe usato un aereo blu per andare a Bruxelles quando ci sono gli aerei di linea. Quindi Aurora, secondo te rischia di più la cancellieri, che si sono riaperti oggi, Repubblica apre su questo il titolo, le bugie della cancellieri, mi sa che... Ma la Lega Nord, partito parlamentare giusto ieri, voterà a favore a questo punto della fiducia individuale sia alla ministra di giustizia, che continuerà la raccolta firme cominciata la scorsa settimana per proporre una fiducia individuale anche al ministro. Quindi la Lega ha già deciso? Sì, c'è sia sfiducia la fiducia alla cancelliera a livello di Camera che in Senato. Ho parlato ieri col capogruppo Bitonci, dice: noi raccogliamo le firme contro Sacco Manni che io... quest'estate ho avuto la fortuna di avere come vicino d'ombrellone, vedi le fortune? Questa devi raccontare per bene. Dove eravate? San Teodoro, un posto bellissimo. Sì. Io sono lì a fare le foto all'isola di Tavolara. Chi c'è lì? Il ministro con la moglie. Faccio anche le foto a testimoniare il tutto. Non è un reato. Così parlavano della grazia Berlusconi. Così. E cosa diceva? E dicevano: ma Berlusconi come poteva immaginare che il Presidente della Repubblica gli concedesse la grazia? Ma su, via, è proprio uno sprovveduto, diciamo così, no? Che cosa ha detto? Diceva così, era lì che leggeva l'Economist con la moglie, e quindi io mi sono fermata a vedere questi sprovveduto con l'Economist. Sprovveduto, diciamo così, detto. Insomma, come può pensare Berlusconi che il buon Napolitano gli darà la grazia? Su, via, dai, proprio uno sprovveduto, va bene? Diciamo così. Cosa ha detto invece di sprovveduto? E così erano chiacchiere balneari, mentre, ripeto, leggeva l'Economist con la moglie. Credo anche lei una docente universitaria, una nota economista, anche la moglie di Sacco Manni. Ma hai capito qua, Mariona Adinolfi si infittisce il mistero. Che mistero c'è? Avrà detto un coglione, lo sprovveduto al mare non lo dici. Sprovveduto. No? Credo qualcuno legge l'Economist, però sprovveduto non si viene. Più o meno è così la versione adinolfiana, cara Aurora. Ecco, cosa voglio, ero una povera così turista che si è trovata come vicina ad ombrellone buon Sacco Manni, così ascoltavo le sue elaborazioni economiche. Sì, diciamo sprovveduto, diciamo la versione elegante. Mannaggia, ma che sprovveduto! Che sprovveduto. Vabbè, non sta simpatico Berlusconi, questo è chiaro, ma non è che immaginavamo che stesse col posto di Berlusconi in camera, quindi non è che ho capito bene perché c'è tutto questo caso. La verità vera, caro il mio professor Milan, è che qui domani ci doveva essere questo mitologico consiglio nazionale del PDL. E non c'è, ma non si capisce bene. Se c'è, si spacca il partito sicuramente. Insomma, quindi in più il PD c'ha dentro la pancia ormai la gestazione reziana che dovrebbe vedere la luce l'8 dicembre. Tu capisci che quando si romperanno le acque del PD, diciamo così, si romperanno anche le acque per il povero governo Letta. Non è Mosè, non credo che le aprirà in due e passerà in quindi cosa. E quando cade il governo? Niente panettone per Letta. Niente panettone, attenzione! Ragazzi, ma se salta la cancellieri, pensate che è una cosa secondo me è più il caso cancellieri più che il caso decadenza Berlusconi. Si è impegnato Letta personalmente, è andato in Parlamento dicendo comportamento cristallino, bla bla bla. Adesso se si salta il guardia di cancellieri, viene giù il teorema di Napolitano. Se cade la cancelliere, viene giù il teorema di Napolitano. Insomma, fu un ministro fortemente voluto a garanzia lei, donna prefetto, insomma, questo concetto da prefetto un po' ottocentesco, ridate Ceradeschi a Milano. Capisci che ovviamente venendo giù la cancelliere. No, nel senso, questa cultura prefettizia, comunque dei privilegi, questo mondo di potere legato alla cultura del prefetto, che insomma vuol dire una visione proprio molto ottocentesca. La cancelliere, ovviamente, messa lì da Napolitano, nel momento che mi viene giù lei, cade delegittima anche l'operazione cade dietro tutto. La regia di Napolitano. Soprattutto chi è che ha riaperto il caso Cancellieri? Com'è successo? Renzi è andato da Santoro, ha detto se c'ero io lo sfiduciavo. Sì. E infatti il PD è diviso, Civati dice Renzi ora mi appoggi perché su questo ci sono le mozioni di sfiducia. Ma le due notizie politiche che ho letto dai giornali sono queste. Corriere della Sera, retroscena di Francesco Verderami, Berlusconi ai suoi, se avessi il passaporto me ne andrei ad Antigua. È partito, ma mica per fuggire la giustizia, per evitare queste ore di come dire, pranzi con Fitto, notti con Alfano. Ma voi non andreste ad Antigua, Mario? Ma tu, cioè, voglio dire, al pranzo hai Fitto, alla notte hai Alfano che ti fa il bivacco. Ma a me è obbligatorio farli queste cose. Io come fenomeni, cioè, sei Berlusconi, ma c'hai 20 miliardi di patrimonio. Ma mi pare deficienti, pare nonno Pino, pare. Che ti frega, non li guardare. Fai quello che devi fare, sei il leader incontrastato, c'hai i voti, c'hai i soldi, c'hai il partito a tua disposizione, tanto è patronale, non capisco tutta su perché sei incartato dentro questa situazione paradossale. Vabbè, allora questa è meglio. Il Fatto Quotidiano, sapete chi potrebbe rilanciare Forza Italia? Avrebbe trovato risolvendo? Adriano Galliani dal Milan a Forza Italia, così se lo leva dalle palle con la questione di Barbara Berlusconi, no, sarebbe una mossa geniale, e lo affida a Marina Berlusconi. Galliani sogna le figlie di Berlusconi come degli incubi che lo perseguitano da tutte le parti. Vabbè, questa potrebbe essere. Ma non hai letto la Padania, Milan? Cosa scrive oggi la Padania? Non ancora, ce l'ho qua. Mamma mia, cosa scrivete oggi sul Consiglio Comunale di Milano? Oggi apriamo sugli scrocconi, questa vicenda dell'emendamento presentato dalla Lega alla legge di stabilità per introdurre il pedaggiamento del Sacro Graal, grande raccordo anulare, le tangenziali romane sono gratuite, le tangenziali milanesi ce le paghiamo. Eccolo lì Adinolfi, eccolo lì. E cosa è successo ieri? Sul fronte del partito, PTR, il partito trasversale romano. Eccolo lì Adinolfi. Ieri ha unito tutti, Alemanno, Zingaretti. Ti vuol far pagare il pedaggio. Non si deve pagare la tangenziale di Roma. Ho pagato il tassì sul grande raccordo che prendeva l'infarto. Pagate, pagate Romani, pagate. Come si chiama il grande raccordo anulare? Come? È la? La? 90. La 90, cosa vuol dire? Si chiama 90. Si chiama 90, sì. Non so, 90. E lei voleva fare una sottile metafora, Lina, tu non capisci queste cose. No, sono i milanesi che pagano le tangenziali, infatti ero tra Adinolfi, pagate la tangenziale come la paghiamo da Milano, del pubblico che io ho, del pubblico di Radio 24. Ero un po' terrorizzato, infatti, su questo 90, ho detto. Sai che quando facevo la cronista a Roma vedevo di farsi correre la mattina per Roma, certo. Vabbè, comunque pagate Romani, il sacro gra non è male, il sacro gra. Allora andiamo alle informazioni sul traffico a proposito di gra e andiamo agli amici di Mario Adinolfi, tra poco la segreteria telefonica. 24 mattino. Ma che cavolo di politica è questa qua? Gli alfagnani, i pontieri, i falchi, i renzagnani, i bersiani. Io so che in Inghilterra ci sono i conservatori e i laburisti, in America i democratici e i repubblicani. Alessandro Milan, hai veramente una faccia tosta, insisti ancora con il caffè della Minetti. Ieri il governo Crocetta e l'Assemblea regionale hanno approvato una variazione di bilancio. Tra i tanti punti leggo testualmente: l'articolo 5 stanzia le somme per il corpo forestale alla regione, 21 milioni per il personale, e cioè per il pagamento degli stipendi, I restanti 3.680 euro vengono destinati per le attività, attrezzature eccetera, quindi 21 milioni per il personale forestale, 3.680 euro per le attrezzature e le attività. Non ho parole. E Luca da Foligno, Adinolfi, vai a fare in culo te e tutti gli altri come te, vai a stappare la terra. Grazie. Buongiorno, ma quel cialtrone di Adinolfi viene pure pagato per stare lì in radio con te? Senza inganni e senza trucchi, chi comanda mo so i grucchi. Con le loro esportazioni hanno invaso le nazioni, niente bombe o carri armati, ma prodotti ben curati con i costi ribassati, da accordi sindacali che in Italia so letali. Non è un panzer che ci acciacca, è che stiamo nella gacca perché siamo vecchi e stanchi con le mani sopra i fianchi. Non riuscimo a buttare un vecchio che va messo a diventare secchio. Che gli diamo ai ragazzetti? Un futuro da parchetti. Vabbè, vabbè, il nostro stornellator cortese, eccolo qua, eh. Siamo con Aurora Lussana, direttore della Padania, hai visto, hai visto. E con Mario Adinolfi. Mario, oggi, vabbè, ho gli sfoghi, lo sai. No, era giusto, giusto. No. Se non ci fosse questo, che lo facciamo a fare? Tutto bene. Comunque, volevo dire al pubblico, sì, mi pagano e tanto, no, sono felice per voi. No, no, la verità è questa. E adesso no, che sapete che mi pagano tanto, ripetatelo, capito? No, viene pagato da Milan. Questo dobbiamo dirlo chiaramente, e io infatti li saluto tutti come i miei grandi eroi, quelli che si svegliano qui alle sei e mezza, e che sono assolutamente qui per il piacere enorme di essere qui, assolutamente, non si prende una lira nessuno, eccolo qua, gli scroti. Milan ovviamente, ragazzi, sì, a me pagano. A Milan, caro pubblico di Radio 24. Vabbè, la telefonata la pagate voi. Sì, esatto, esatto. C'è qualcosa di sti tempi, eh? Esatto, gli scrocconi, guardalo qua, gli scrocconi, eccoli qua, Alemanno. Zingaretti e Marino, eppure Adinolfi ci potevi mettere sul grande raccordo annuale a 90, sì, proprio così, a 90. Hai capito la sottile metafora di Aurora? Hai capito? Adinolfi non prende la 90, non la no, prende, sai perché? Lo vedevo correre per Roma quando facevo la cronista parlamentare, anni fa. Certo, è vero, lui va sempre in tram. Sentite questa, sentite Paolo Bernini del Movimento 5 Stelle. Oh, ma che mangiano nella mensa dei parlamentari? Sentite Paolo Bernini su Bin Laden. Vorrei ricordare che la giustificazione di Bush per invadere l'Afghanistan fu la guerra al terrorismo, con lo scopo di distruggere Al-Qaeda e catturare e uccidere Osama Bin Laden. Al-Qaeda continua a mietere vittime in Siria, a fianco dei ribelli, quelli che l'America vorrebbe aiutare. E Bin Laden, dovrebbe essere morto 2 anni fa. Io non capisco perché siamo ancora lì. Dovrebbe essere morto, capito, Mario Adinolfi? Dovrebbe. È il complottone, lasciati perdere questi poveri del 5 Stelle, mamma mia. Pino c'è una cattiveria che non lo confronti, sappiamo. No, Pino c'è e c'è e va arrabbiata. Vabbè. Fanno la cosa sui kamikaze e va arrabbiata. Adesso oggi pure su questo, insomma, mannaggia, poverini. Sono la prima esperienza, neanche un anno ci hanno in Parlamento, mica sono come i leghisti, stanno lì da 20 anni. Stilettata. Di più di 20 anni. Di più. 25. Quarto di secolo. E mica migliorano, eh. Tra l'altro oggi sulla Padania, prima pagina, la parola ai lettori, fate una domanda ai 5 candidati. Tu Adinolfi che domanda faresti? Fai una domanda ai 5 candidati della Lega per il succedere a Maroni, dai, forza. Bella, insomma, questa qui. Che ne pensate della porcata? Questa è la prima domanda, Aurora, che gli fareste a Calderoni? Tu gli hai dato, Romano, tu gli hai dato dello scroccone. Tu gli hai dato dello scroccone, Aurora, e lui si arrabbia. No, so bene qual è stata la genesi della porcata, insomma, Calderoli me l'ha raccontato più volte, insomma. Sì, lo sappiamo tutti, insomma, come andò, insomma,

24 mattino. Sono le 8 e 19 minuti, bentrovati da Alessandro Milan. Allora, eccoci qui. Allora, uno apre i giornali, nello specifico il giornale di ieri per la verità, e trova uno di quei titoli sull'Italia, sul nostro paese, destinati come minimo a incrinare qualche luogo comune, magari anche a creare qualche polemica, perché no? Certamente però destinato a suscitare un dibattito che facciamo oggi. Il titolo è questo, per esempio l'ho trovato sulla stampa, ieri lo leggevamo in rassegna stampa: immigrati, una ricchezza che vale 1,4 miliardi, dunque un vero e proprio conto economico, delle cifre, soldi. E come viene fuori questo conto, questi soldi? Viene fuori da una ricerca sui dati di 2 anni fa. Sapete tra contributi e tasse quanto hanno versato gli stranieri regolari in Italia? 13,3 miliardi. E nello stesso periodo sapete quanto lo Stato italiano ha speso per loro in termini di servizi, tra questi anche i servizi per i centri di espulsione, primo soccorso e accoglienza ai rifugiati? 11,9 miliardi. Dunque un saldo inattivo di 1,4 miliardi. Dunque se anche volessimo metterlo brutalmente su una questione monetaria, ecco da qui che viene il titolo. L'immigrazione è dunque una ricchezza? Gli immigrati sono una ricchezza? Ne vogliamo discutere con Guido Bolaffi, che è esperto di immigrazione, dirige la rivista West. Buongiorno, buongiorno Bolaffi. Buongiorno. Buongiorno. Così come voglio salutare il responsabile per la Lega del comparto immigrazione, Manes Bernardini, un consigliere regionale dell'Emilia-Romagna e anche una delle persone che corre per succedere a Roberto Maroni alla segreteria nazionale. Buongiorno Bernardini, eccoci qua. Buongiorno a tutti voi. Allora Bernardini, la prima domanda la faccio a lei, visto che la Lega è il partito che forse viene indicato come anche più agguerrito su questo fronte. È una ricchezza? Quando lei legge questo titolo, anche corroborato da cifre e conti economici, che pensa? Ma penso che sono dei numeri che non sono completi, per il semplice motivo che poi va aggiunta tutta un'altra serie di voci di spesa che grava sugli enti locali, sui comuni. Faccio un esempio, le case popolari, faccio un esempio, le esenzioni da asili nido, da mensa scolastica, da trasporto pubblico, che non vengono ricomprese all'interno di questa voce. Ed è quello che abbiamo scoperto esaminando i dati dell'Emilia-Romagna, dove a fronte di interrogazioni specifiche abbiamo visto che per esempio anche solo per le esenzioni ticket nell'anno 2013 sono state quasi 20 milioni di euro le esenzioni ticket a favore di cittadini extracomunitari. Per dire che le voci di spesa sul capitolo immigrazione sono tantissime, ma qua il punto è non solo capire se l'immigrazione porta un più o meno nelle casse dello Stato, bisogna vedere se oggi è sostenibile da un punto di vista sociale. La risposta che vi do è che oggi non è sostenibile, perché purtroppo abbiamo una fetta sempre più larga di italiani che chiedono aiuto, che chiedono case popolari, che chiedono sussidi, per i quali non riusciamo neanche a dare una risposta. Ma lei la mette molto così, cioè prima gli italiani, perché mettere come se fosse un conflitto, cioè o noi o loro, cioè o diamo una mano ai nostri o diamo una mano a loro? Ecco, diamo una mano a già chi c'è in Italia, non facciamo allora nessuna distinzione per non passare come al solito magari leghista che ci volete far passare, però io dico aiutiamo chi oggi è qua. Perché se continuiamo a importare dei poveri, dei disperati che giustamente vengono qua per trovare anche forme di aiuto, di sussidio, però non riusciamo più a garantire neanche quelli che abbiamo già qua sul nostro territorio, cosa continuiamo? Portarne 500 al giorno come altri sono gli arrivi di media sul nostro territorio italiano? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Questa è la domanda che ci poniamo. No, però volevo tranquillizzarla, io non la voglio far passare come nessun tipo di leghista, cioè, è qua a parlare, lei dice le cose e poi gli ascoltatori ovviamente giudicano. Guido Bolaffi, la stessa domanda se vuole di ingresso è questa, cioè a lei che effetto fa leggere gli immigrati sono una ricchezza, che tra l'altro poi è un modo anche se vuole brutalmente di contabilizzarla dal punto di vista economico? Ma dal punto di vista, diciamo le cose come stanno, che l'immigrazione sia una ricchezza è sicuro, perché se non fosse una ricchezza non sarebbe un fenomeno che continua e si autoperpetua, perché sono anche gli italiani che chiamano gli immigrati, non è che sono soltanto gli immigrati che vengono in Italia. Certo, una ricchezza per chi poi la domanda? Ecco, il problema è questo, e su questo punto probabilmente il nostro interlocutore dell'Emilia Romagna ha ragione, nel senso che i conti così fatti così non vanno da nessuna parte. Noi dobbiamo dire una cosa, l'immigrazione porta ricchezza ad un paese, ma non a tutti quelli del paese. La differenza sta qua. Cioè, non è vero che l'immigrazione non accresca la ricchezza, ma non accresce la ricchezza di tutti. C'è una parte del paese che di quella ricchezza si appropria e c'è una parte del paese di cui quella ricchezza non si appropria e si arrabbia. Allora, e l'errore sta nel mettere fare la guerra dei polli di Renzo. In realtà bisogna dire che gli immigrati portano ricchezza, bisogna intervenire per evitare che la redistribuzione di quella ricchezza sia ingiusta, perché oggi è ingiusta. Quella ricchezza va a favore degli imprenditori, va a favore del ceto medio alto che ha le nani e le badanti, va a favore di chi si può permettere un investimento, come dire, sia pur minimo di 400, 500, 600 euro al mese, che ovviamente con uno stipendio di 1500 euro al mese non va, e soprattutto perché la parte dell'immigrazione più in difficoltà coesiste negli stessi quartieri in cui stanno gli italiani che stanno in difficoltà. E quegli spazi diventano spazi mortali. Quindi secondo lei è questo squilibrio della redistribuzione poi della ricchezza generata dall'immigrazione che crea le tensioni. Però qualcuno può dire che la ricchezza va anche in parte agli stessi immigrati. Per esempio, non c'è dubbio. Per esempio Bolaffi. Chiaro. Ma lei andrebbe in un altro paese a lavorare? Investirebbe, come investono molti di loro, migliaia di dollari per spostarsi se la cosa non avesse un ritorno? È chiaro assolutamente di no. Però sa che c'è una polemica che spesso viene ha portato anche delle proposte di legge, credo una proprio della Lega, di tassare le rimesse. Le rimesse sono i soldi che gli immigrati fanno in qualsiasi paese, e perché lavorano, pagano le tasse, lavorano, e mandano alle loro famiglie nei paesi d'origine, dove questi soldi permettono di comprarsi una casa, di sopravvivere. E per molti questi sono soldi che sono, diciamo, tolti dal circuito dei consumi, diciamolo, no? Così brutalmente, dello stesso paese dove si lavora, e quindi andrebbero in qualche modo tassati. Lei, Bolaffi, che ne pensa? L'idea mi pare come stramba, perché è difficile, cioè, siccome il fenomeno si evolve, allora, diciamo così, le rimesse confermano quello che stavamo dicendo, che il meccanismo produce ricchezza, altrimenti non ci sarebbero le rimesse. Noi siamo, tanto per avere una dimensione a livello globale, le rimesse degli immigrati oggi sono due volte di più di tutti gli interventi per l'aiuto allo sviluppo che fanno tutte le nazioni del mondo. Non so se è chiaro. Accidenti. Cioè, di tutti gli interventi per lo sviluppo, accidenti. Quindi, diciamo, è un'economia di autosostentamento notevole. Due volte. In Italia sono in crescita, poi se noi vediamo, poi rispondono a leggi economiche chiarissime. Appena il ciclo economico va male, le rimesse calano. Così come calano i salari o l'occupazione degli italiani, quindi questo è un fenomeno economico. Detto questo, tassare le rimesse è complicato, primo perché le rispongerebbe, per quella parte che c'è di ufficiale, le rispongerebbe nel mercato nero, che è enorme, perché spesso le rimesse che noi contabilizziamo sono quelle che passano attraverso le banche e non attraverso gli spalloni. Chiaro. Chiaro? Secondo, io farei un'altra proposta. Tassiamo e abbiamo il coraggio, visto che gli immigrati investono dei soldi per venire in Italia, tassiamo quelli e noi facciamoli tassare soltanto dai trafficanti di persone. Quando il trafficante di persone ci fa dare 3.000 dollari, lui impone una taglia, va bene? Noi invece dobbiamo fare alla luce del sole una tassa, anche ripagabile negli anni. Ma se uno viene perché ha un progetto economico e tira su un'impresetta che si chiama se stesso, lui le tasse le deve pagare. Certo. Anche facendo come fanno in Canada. In Canada so che fanno? 1.000 dollari costi tu, me li ridai in 15 anni, 20 anni. Ma una lira me la devi ridare, e quella lira devo andare a favore degli italiani in difficoltà. Perché in quel paese, questa è una proposta, Bernardini, perché non mutuate questa idea? Ricordo che la questione delle rimesse era una ipotesi della Lega, non so se anche lei sosteneva questo tipo di tassazione. Dell'analisi di Bolaffi, cosa condivide e cosa non condivide? No, condivido alcuni aspetti, però anche sulle rimesse non diciamo tutta la verità, perché le tassazioni c'erano, sono state tolte dal governo Monti, ma noi abbiamo chiesto di più. Abbiamo chiesto, per esempio, nella legge regionale dell'Emilia Romagna che stiamo discutendo sulle case popolari, di indicare anche quello come parametro per calcolare il reddito di coloro che vanno a chiedere i servizi sociali, perché se mi trovo il cittadino e la famiglia cinese che ogni settimana mi fa 1.000 euro di bonifico all'estero e poi mi viene a dichiarare zero di reddito, mi viene a chiedere la casa popolare, mi viene a chiedere i servizi sociali, delle tre o l'una, o mi mente, o lavoro in nero, oppure ha un'attività illecita che le produce un profitto che non dichiara né allo Stato né al Comune a chiedere i servizi. Sulle rimesse all'estero, questo flusso costante di soldi che viene tolto dal nostro territorio e mandato oltre il confine, è un problema, non può essere sottovalutato così come per dire, vabbè, lavorano qua e mandano i soldi a casa. Eh no, perché cominciano ad essere somme molto importanti, cominciano a essere... Però loro, se uno lavora, Bernardini, paga tutte le tasse del caso e poi dei propri soldi ne fa ciò che vuole, cioè che... Ma ne può fare sicuramente quello che vuole, però pretendere che comunque di fronte a certe rimesse che costituiscono anche una perdita di denaro che circola sul nostro territorio, a discapito della nostra economia, pretendere un qualcosa, penso che non... Poi un qualcosa che va sicuramente calcolato in percentuali minime su quelle che sono le transazioni, possa essere anche un incentivo per rendere finalmente chiarezza su come avvengono anche queste raccolte di soldi che costantemente vengono mandate all'estero, perché su quello c'è veramente la giungla. Allora io tra l'altro... No, su questo, da questo punto di vista vorrò ripartire dopo le informazioni, dopo la pubblicità. Invito anche gli ascoltatori a chiamare 800 24 00 24. Stiamo discutendo sul tema: gli immigrati sono una ricchezza secondo voi? Dal punto di vista dei conti brutali, sì, anche se, come ci dice Bolaffi, una ricchezza magari di conti, ma una ricchezza non per tutti. Ci sono anche questi dati da cui vorrò ripartire, perché lei, Bernardini, dice la questione delle case, per esempio, chiedono le case popolari. Questa ricerca dice che in realtà gli stranieri sono discriminati nella ricerca dell'abitazione, perché sono più difficili per loro gli accessi ai mutui, alla richiesta della scuola, oltre l'80% di loro è concentrato in istituti tecnici o considerati comunque scuole meno prestigiose, o nella sanità, solo 6 regioni ha ratificato l'accordo che supera diseguaglianze dell'accesso ai servizi sanitari, o nell'impiego il 42,1% degli immigrati è sotto inquadrato rispetto agli italiani. Però insomma... 24 mattino. Siamo qui, allora stiamo parlando di immigrazione, ci chiediamo: gli immigrati sono una ricchezza? Perché i titoli di giornali ieri dicevano sì, valgono 1,4 miliardi in un conto brutale che è stato fatto tra ciò che lo Stato ha speso per loro, cioè 11,9 miliardi di euro nel 2011, e ciò che invece gli immigrati nello stesso periodo hanno versato nelle casse dello Stato, 13,3 miliardi. Il saldo fa un attivo per le casse dello Stato di 1,4 miliardi. Siamo con Guido Bolaffi, direttore di West, voglio ricordare tra l'altro www.west-info.eu, credo sia questo, Bolaffi, il sito internet. È una rivista in italiano e in inglese. In italiano e in inglese, perfetto. Siamo con Manes Bernardini, che è responsabile per l'immigrazione della Lega Nord e consigliere regionale della Lega in Emilia Romagna. Ci ha raggiunto anche, lo voglio salutare, Franco Pittau, che è il coordinatore del dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes. Buongiorno Pittau. Buongiorno, il dossier statistico di migrazione dell'UNAR quest'anno. Dell'UNAR, perfetto. Buongiorno fatemi sentire anche due ascoltatrici e due ascoltatori, anzi per la verità una ascoltatrice e un ascoltatore. Graziella da Milano, buongiorno Graziella. Buongiorno, io volevo fare un intervento appunto sull'immigrazione, tenendo conto della solidarietà tra le persone, ovviamente, però anche se nel vostro nello studio che hanno fatto, nella valutazione, hanno considerato il sommerso, cioè l'immigrazione clandestina, cioè l'immigrazione per esempio a Prato, che ha fatto vedere i servizi sulla 7 settimana scorsa sui cinesi, dove hanno chiuso aziende italiane per far posto all'illegalità cinese, perché facevano vedere. Lei, Graziella, sta facendo questa domanda, cioè sta cercando di capire, e Pittau adesso magari dà una risposta, visto che ha presentato questo, se hanno considerato in queste cifre anche tutto ciò che viene fatto in nero. Credo di no, però. Infatti, perché penso che questo porti un grave danno all'Italia, nel senso che appunto hanno chiuso aziende italiane, per cui cassa integrazione, licenziamenti e tutto il resto, per far posto all'illegalità cinese. Sì, certo. Allora, Pittau, intanto, c'è questi dati, ci spieghi un attimo se tengono conto anche di tutta la economia non regolare? Temo, credo di no. No, perché noi ci siamo basati su archivi ufficiali, quindi dati ufficiali. Sappiamo tutti che l'impatto del sommerso forse supera un sesto del totale e quindi avrà una... riguarda anche l'immigrazione, ma siccome ci basiamo su dati precisi, questo non può essere. Noi abbiamo calcolato quello che versano gli immigrati in termini di contributi previdenziali. È mai una questione simile attuale dopo le dichiarazioni che sono state fatte sull'INPS ieri? Noi sappiamo che loro versano 7 miliardi di contributi anno e all'incirca e non prendono quasi per niente pensione, che sono giovani. Ecco, questa è una cosa molto semplice da capire per l'aiuto che dà l'Italia. Poi ci sono le imposte che pagano. Poi abbiamo calcolato, i nostri ricercatori su questo tema hanno calcolato le spese per la giustizia, per il contenimento, la repressione dell'irregolarità, oppure per la scuola, quello che spendono i comuni, e abbiamo fatto questo calcolo. 1.400.000.000 è minimale, perché ci siamo basati sulle spese pro capite, però noi sappiamo che questo è ingiusto, no? Gli edifici e gli insegnanti ci sarebbero lo stesso anche se non ci fossero 10 immigrati, però noi abbiamo diviso equamente, quindi quella somma è anche maggiore. Io non voglio dire, e nel libro non si dice, che gli immigrati sono un miracolo per l'Italia, però specialmente in questa fase, che poi andrà cambiando quando ci sarà maggiore stabilizzazione, quindi probabilmente ci saranno anche più spese, più pensionati, oggi sono di un grande aiuto rispetto al nostro paese che trova enormi difficoltà. Beh, interessante la cifra che lei dice. Prima vorrei l'ascoltatore, poi un commento di Bolaffi e Bernardini su questa cifra. Effettivamente non abbiamo tenuto conto. Ogni anno gli immigrati regolari ovviamente versano 7 miliardi l'anno alle casse previdenziali, all'INPS, e probabilmente sono persone che non prenderanno mai la pensione. Molti di loro a un certo punto della loro vita magari vorranno tornarsi nel loro paese. Paco da Belluno, buongiorno Paco. Buongiorno Alessandro. Dica. Allora, ma a sentire il signore della Lega, ma sembra che tutti gli stranieri chiedono la casa popolare, che sa cosa. Allora, io ti dico, io vivo in Italia da 20 anni, ok? Io ho sempre lavorato, ho fatto un mutuo 15 anni fa, ho la casa in proprio, non chiedo niente al comune. Ho mia figlia piccola che va all'asilo, pago le quote dell'asilo, tutto quanti. Allora, la cosa che non ritengo giusto, che loro della Lega non dicono mai, è il fatto che, ma com'è possibile, Alessandro? Io che vivo qua da 20 anni, che pago tutto in regola, mia figlia che è nata qua, in Italia, io dovrei pagare 87 euro per farle il permesso di soggiorno. Ma è assurdo, ma io perché non è italiana, perché, ma non può prendere. Aspetta Alessandro, io la cittadinanza italiana lo potevo già prendere 10 anni fa, ma io non lo prendo perché non lo voglio. Io voglio la mia. I miei figli, anche se sono nati in Italia, io non vado mai a chiedere la cittadinanza per loro. Non voglio neanche che loro abbiano la cittadinanza italiana. Vogliono che abbiano la cittadinanza mia, però. Che non che vado in quest'ora a pagare 87 euro per fare. Dice, lei vuole mantenere la sua cittadinanza, ma non vuole per questo spendere 87 euro all'anno. Vabbè, non so, questa è una questione, diciamo, più. Non so, Bolaffi vuole rispondere a questa, però forse la questione dei conti dell'INPS è un po' più, diciamo, superiore. No, non che non sia importante. Esprime una delle tante facce. Sì. È un fenomeno complicato quello dell'immigrazione. Ha sentito? Lui non vuole la cittadinanza italiana, sì. Il ministro dell'integrazione invece vuole per forza dargli la cittadinanza cambiando la legge sulla nascita. Vedi, è un po' complicata la faccenda, è un po' così. Un giorno o l'altro, sì. Però sostanzialmente mi pare che se rimaniamo sui dati, allora ne voglio dare altri due perché mentre parlavamo guardavo, allora dalla Lombardia soltanto, terreno formidabile per il nostro Manes Bernardini di riferimento, dalla Lombardia nel 2012 sono partiti 1,5 miliardi di euro di rimesse. Sì. A livello mondiale l'ultimo dato sono 500 miliardi di dollari nel 2012. Allora, torniamo al problema. Quello che ha detto Manes Bernardini sulla cinese, che manda 1.000 dollari di rimesse, sì, e risulta povera, e poi il napoletano che frega lo Stato. Colpiamola e mandiamola in galera. Non c'è problema. Non c'è problema, perché l'immigrato non è che è una figura santa intoccabile. È uno che si fa gli affari suoi e li fa bene anche per noi, però non è che è intoccabile. Se viola la legge, si ingoia sui servizi pubblici, è come tutti noi, è come tutti noi, non è né santo né truffatore per principio, è un essere umano e quindi no, dice, fa quello che fanno anche gli italiani. La gran parte degli immigrati le rispettano in silenzio. Sì. Sappiamo anche, e c'ha ragione Pittau, che lì c'è un piccolo problema sulle pensioni. E cioè, siccome sono giovani, sì, ora non è vero che pagano loro le pensioni, li pagano i loro datori di lavoro. Sì, certo. Ecco. Però è vero che questo è un fenomeno su cui noi, un po' furbescamente, come italiani, ci tacciamo perché ci fanno comodo. E c'ha ragione Pittau. Attenzione però, perché nei paesi in cui l'immigrazione è cominciata molto prima che di noi, adesso loro fanno i conti con un fenomeno che noi neanche cominciamo su cui cominciamo a riflettere, cioè l'immigrato invecchia anche lui. Mm. E se non stiamo attenti, noi avremo una generazione di persone che avranno pessimi contributi sociali, sì, non sono stati attenti, non li hanno pagati bene, alcuni se li sono presi, alcuni non se li sono presi. E quindi sarà, è chiaro, quindi sarà una diciamo una bomba economica che grava sui conti dello Stato. Io vorrei chiedere a Manes Berardini che ne pensa delle, ecco, questa cosa delle pensioni, per esempio, anche se vuole le cifre, il 1,5 miliardi di rimesse della Lombardia, che farebbe a quelle rimesse della Lombardia lei, Bernardini? L'ho detto, per le rimesse ci vuole una tassazione che per far emergere tutto il nero che c'è dietro e far emergere anche quelle situazioni di illegalità che ci sono. Mm. Purtroppo oggi sulle rimesse non c'è alcun tipo di controllo, salvo una comunicazione obbligatoria che dovrebbe essere fatta, tipo dare dei negozi transfer money a delle autorità i cui dati poi vengono mantenuti in un cassetto, perché se non superano certe somme non vengono neanche. Però ho sentito Bolaffi che dice la cinese o qualsiasi nazionalità che truffa venga punita dalla legge, cioè punto, nel senso. Sì, il problema è arrivarci a colpirla, perché e poi questo è poi un discorso che riguarda, ripeto, la illecità o meno del profitto, ma poi c'è la ricaduta sociale, perché questa condotta che viene comunque a ricadere su ISE, su parametri che mi consentono di darti degli aiuti a zero, mi portano un costo a me come comune e mi porta a me come comune a non rispondere magari a domande di altri tanti italiani che sono nelle sue condizioni e che non fanno ogni settimana magari un bonifico in nero nel paese estero di provenienza. Questa è una grande realtà. Noi cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che questo fosse un parametro e che venisse messo all'interno di quegli elementi che vengono valutati ai fini del reddito. Perché no? Perché se io mando via ogni settimana 1,000 euro non devo dichiararlo, non devo essere preso in considerazione ai fini della determinazione del mio reddito per accedere ai servizi sociali e a case popolari. Bene, questa proposta di Emilio Romagna non è passata, l'hanno bocciata. E invece al nostro amico che chiede di dover pagare 87 euro al giorno, all'anno, scusi, per il permesso di soggiorno perché non vuole avere la cittadinanza, che risponde? Beh, è una sua scelta. Quanti soldi paghiamo noi italiani per far fronte ai costi dell'immigrazione? Mm. Cioè, io quindi dice, o prende la cittadinanza oppure se le deve pagare, ecco questo. Se è una sua scelta, sa che se la prende ha la possibilità di prendere per lui e per i figli, perché ha visto che qua da 20 anni sicuramente se ha dei figli che ormai sono maggiorenni possono chiedere anche loro la cittadinanza. Che lo faccia, ma che non si lamenti per regole italiane che nel caso in cui uno non richiede la cittadinanza gli impongono di pagare questo obolo annuale. Allora, quanti soldi paghiamo noi italiani? Ripeto, ma è chiarissimo, 20 milioni di euro per esenzioni ticket a cittadini extracomunitari all'anno, allora, pagati dai cittadini emiliano romagnoli. Devo andare a fare le informazioni sul traffico, poi devo dire Bolaffi, lei mi ha scatenato un putiferio, non lo sa via sms, non lo sa neanche con quella frase ha detto quando ci ha detto quel cinese che ruba, è come il napoletano che truffa lo Stato, ci sta scrivendo Ugo da Napoli, perché proprio il napoletano come esempio, mi spiega le battute, il napoletano, Giovanni Ricciardi da Napoli ci scrive, ma come, perché proprio il napoletano che truffa lo Stato, vabbè ripartiamo da qui, dai, su. Allora, io prima di andare e tornare da Franco Pittau, Bolaffi, vogliamo spiegare, mi stanno scrivendo una marea di napoletani, giustamente lei ha detto la cinese che ruba è come il napoletano che frega le... Vabbè, ma io ho fatto, è una battuta affettuosa. Adoro i napoletani, ho lavorato 20 anni a Napoli, una città meravigliosa. Però, insomma, siccome ci sono delle caricature, ci sono i romani che mangiano una pagliata, i napoletani ogni tanto dicono che non hanno una lira e invece non c'è. Vabbè, ecco, dai, chiudiamola qui, ma sì, ma se nessuno si offenda, diciamo che i milanesi io mangio la polenta e chi se ne frega, insomma. Allora, Franco Pittau, nel presentare questi dati, Guido Bolaffi come prima opposizione aveva detto: è vero, creano ricchezza gli immigrati, il problema è che non creano ricchezza, il tema è per chi creano ricchezza. E diceva: creano ricchezza per gli imprenditori, per un ceto medio alto, ma non per tutti, cioè ci sono una fetta di italiani che invece non beneficiano di questa ricchezza, e questo alimenta invece le tensioni nei rapporti, no? tra diciamo, le cose viste da un punto di vista complessivo possono dimostrare, possono portare a un'altra conclusione. Prendiamo una persona che ha un malato, un anziano, oppure una donna che deve andare a lavorare e non può accudire i figli. Crea ricchezza, perché non potrebbe lavorare, non si potrebbero accudire gli anziani. Questi sono 700.000, secondo stime poi sarebbero addirittura 1 milione, persone che lavorano per l'assistenza domestica e personale, e creano ricchezza per le nostre famiglie, se no sarebbero molto a disagio. È vero, c'è qualche donna italiana in più che si è inserita, però sono le donne straniere e anche degli uomini stranieri che si occupano dell'assistenza alla famiglia, e questa è una ricchezza perché ci rende più liberi per fare le altre cose. I 180.000 permessi di soggiorno che sono scaduti, non sono stati rinnovati in prevalenza per lavoro e per famiglia, sono un ammortizzatore sociale per tutti noi, perché se fossero rimasti qua, io non giustifico questo perché è una storia drammatica dei progetti migratori che falliscono, ci hanno aiutato perché sono un ammortizzatore, se no avrebbero caricato, sarebbero stati a carico delle nostre risorse. Oppure il fatto delle pensioni, che è un aiuto enorme, durerà per molti anni perché sono molto più giovani. Noi abbiamo fatto uno studio previsionale, adesso gli immigrati incidono per l'1,5% su quelli che entrano nell'età pensionistica, sì, quindi 65 anni, 66 anni, e nel 2025, quando saranno circa un sesto della popolazione, loro incideranno solo per il 6% su quelli che entrano nell'età pensionistica, quindi questo vantaggio differenziale resterà ed è un beneficio per tutti. Sì. Oppure il fatto che mandino rimesse, auguriamoci che siano oneste, perché tutto quello che non è onesto è chiaro, come diceva Guido Bolaffi, però la maggior parte di loro mandano 100 euro, non è che ci siano i proventi illeciti, mandano 50 euro. Il totale però non so. Il totale è notevole. Allora, queste rimesse che girano per il mondo, noi che ci riempiamo la bocca di sviluppo, a fronte di paesi ricchi che hanno tanti problemi, non possono più dare fondi per lo sviluppo, questo è un aiuto molto concreto, certo, per lo sviluppo. Che dovrebbero aiutare anche lo sviluppo del mondo. In più, siccome queste 5 milioni di persone irregolari che stanno in Italia hanno dei parenti, dei paesani, conoscenze, questo può esercitare un grande impatto sulla sistemazione dei nostri prodotti all'estero. Noi non ci crediamo, perché alla fine non crediamo più in niente, però loro, nel loro piccolo, sono dei... Ma poi lei dice, mandando anche queste rimesse, potrebbero poi, anche... Diciamo, ma sono paesi del terzo mondo, anche la Cina era del terzo mondo. No, ma è interessante, tra l'altro, perché questa cosa delle rimesse vuol dire che potrebbero aiutare lo sviluppo e quindi anche impedire ad alcune persone di muoversi nel mondo. Mi fate sentire Angelo da Roma. Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo precisare alcuni punti dal mio punto di vista. Ad esempio, molti immigrati che lavorano qui in Italia aiutano l'economia italiana, però distruggono tanti altri onesti lavoratori. Perché? Perché hanno delle spese che sono nettamente inferiori alle nostre, tipo anche un semplice veicolo, una semplice auto. Loro hanno la possibilità di averla all'estero, quindi c'è la targa straniera e tutto, e quindi pagano assicurazione ridotta, un bollo. Ho capito, mi scusi, ma uno che viene, Angelo, mi perdoni, uno che viene dalle Filippine, secondo lei si compra una macchina dalle Filippine e se la porta dalle Filippine? Sono Filippini, in Italia, anzi. No, no, certo, lo so, però per dire. Sono tantissimi che vengono da altri posti dove hanno altri veicoli, tante altre cose, e riescono a portare avanti un'economia diversa da quella che può portare un italiano. Ma poi anzi, vivono in Italia, cioè si mangiano le stesse cose che mangia lei, cioè comprano certo, cercheranno di fare economia, però insomma, lei la vede come una concorrenza sleale, diciamo così, Angelo. Eh? La vede come una concorrenza sleale, non so. Beh, certo, perché io anche per lavorare, no? Se io ho un veicolo italiano e ci lavoro con questo veicolo e loro lavorano con un veicolo che viene da un altro paese, è sì. Normale che riescono a farmi una concorrenza, perché io solo tra assicurazione, bollo o delle tasse che devo pagare rispetto a loro che pagano una piccola percentuale. Va bene, insomma lei dice questo. Con lei devo concludere, non c'è più spazio, voglio salutare e ringraziare Guido Bolaffi, Franco Pittau e Manes Bernardini, che ricordo è uno dei 5 candidati anche alla segreteria alla successione di Maroni per la Lega. Ci fermiamo qui, è tutto riascoltabile sul sito radio24.it e ci fermiamo proprio per questa settimana, ci ritroviamo lunedì puntuali 6:30, noi ci siamo, Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.